ciascuno il suo, di Raffaella Calandra. Scriveva Italo Calvino che a Napoli basta scendere pochi gradini e non capisci più qual è il regno dei vivi e quello dei morti. E se Calvino lo diceva a proposito della città sotterranea che custodisce il culto delle anime del purgatorio, questo potrebbe valere anche per la terra dei bunker e per il mondo sotterraneo e parallelo di chi fugge dallo Stato, chi scappa dalla giustizia, come i boss d'Ndrangheta, spesso si nasconde nelle viscere della terra. Aperta la pesante botola di cemento su due binari, scesi 10 alti gradini, sono entrata anch'io nel bunker di un boss di 'Ndrangheta. Voltate le spalle al sole cocente della Calabria, sono scesa nel mondo senza luce né aria dell'altra Calabria e per un po' ho incrociato la vita di un latitante. Un viaggio iniziato con un grosso topo e proseguito nei 35 metri quadrati che hanno nascosto un boss dal cognome pesante. Soggiorno con cucina, camera da letto e bagno, due prese d'aria per garantire la sopravvivenza, due letti e un complesso sistema di cavi per portare elettricità e antenna della televisione, ovviamente gigante, fin dentro le viscere della terra. Il quadretto del Cristo col suo cuore dolente è ancora lì, sulla parete sopra il divano, come due bottiglie d'acqua e detersivi. Nell'aria pregna di umidità si sente ancora l'angoscia del boss, terrorizzato dall'ansia della cattura. Io lo confesso, non riesco proprio ad immaginare come abbia potuto vivere per giorni qui sottoterra una persona. E lo ammetto, quando sono risalita, sono stata felice di risentire di nuovo il sole cocente di una mattina d'estate in Calabria sulle mie spalle. Ma sono uscita anche con una domanda. Quanti rifugi sotterranei si nascondono in questa terra di silenzi e rimpianti? Più di 100 quelli scoperti solo dall'arma dei carabinieri, ci riporta Beppe Lumia, comandante dei ROS di Gioia Tauro, mentre ci accompagna insieme a John Dickey, studioso inglese di mafie e autore del documentario Mafia Bunker, nella Calabria parallela, un viaggio metaforicamente iniziato dal palco del Festival Trame. Diciamo che in Inghilterra c'è uno strano misto di noia quasi sul discorso mafia, tanto tutti hanno visto Il Padrino, che altro c'è da imparare, e di curiosità, senz'altro, di luoghi comuni, ed è abbastanza difficile trasmettere, cioè bisogna trovare un aggancio, un nuovo modo, qualcosa per attirare un pubblico, per far capire la realtà di quella che è l'Ndrangheta di oggi, far capire gli sforzi che abbiamo fatto per far capire l'Ndrangheta all'estero, dove, come sapete, è quasi completamente sconosciuta, una realtà misteriosa. Quindi abbiamo usato il discorso dei bunker, che è molto interessante in sé, molto significativo, ci dice moltissimo sia sul potere dell'Ndrangheta sul territorio, ma anche dello stato attuale della lotta alle mafie, l'Ndrangheta in particolare. Una specie di gioco di prospettive, no? Noi vi vogliamo far vedere come abbiamo cercato di far capire l'Ndrangheta agli inglesi, all'Inghilterra. Io vorrei che anche Beppe Lumia ci cominciasse anche a dare un po' qualche assaggio sulle tipologie di bunker che ci sono in Calabria, che sono quelle poi attraverso le quali hai portato John. Allora, il viaggio che abbiamo fatto in Calabria ha riguardato sia il versante tirrenico che il versante ionico della provincia reggina, con visite estreme in contesti diversi, in rifugi diversi, escamotage diversi per concepiti da persone che scappano di fronte allo Stato per evitare di andare in carcere, tutte finite con l'arresto dei latitanti che sono stati cercati. Il viaggio attraverso il quale abbiamo portato John e tutta la truppa è stato caratterizzato da un messaggio di fondo. Lo sforzo di tanti noi uomini di Stato, magistrati, carabinieri e persone della polizia, della Guardia di Finanza, che facendo fronte unico e gente anche che io definisco civile, gente della società civile, che facendo fronte unico contro la criminalità organizzata si sforza quotidianamente di combattere e di lanciare dei messaggi positivi. I numerosi bunker che abbiamo visto demolito, ispezionato e nei quali abbiamo portato i nostri amici inglesi, variavano per ampiezza, per escamotage mimetici per non essere trovati, piuttosto che localizzati in campagna o all'interno di abitazioni. Il più sfizioso, se passatemi questo termine, c'era quello dentro al quale si accedeva dal forno normalmente funzionante che si trovava sulla Ionica. Altri come forno di una per pizzeria. Sì, un forno in pietra refrattaria costruito all'interno di una pertinenza di questa casa che era normalmente funzionante, entrando all'interno di questa camera di cottura c'era una botola assolutamente mimetizzata che permetteva di accedere ad un corridoio e poi ad un mini appartamento utilizzato da un boss narcotrafficante dell''Ndrangheta. Altri bunker che abbiamo fatto visitare sono stati invece i bunker delle cosche rosarnesi, numerosi e puntualmente scoperti. Spero che il messaggio che noi operatori siamo riusciti a far passare, quantomeno a loro che hanno respirato la stessa aria, che sapeva di muffa, che sapeva di buio, che sapeva di privazioni, abbia contribuito a far passare un messaggio positivo. E innanzitutto perché voi anche quei bunker, per quanto mimetici, per quanto ingegnosi, per quanto complicati, sono stati scoperti, i latitanti sono stati arrestati, e questo di sicuro è un messaggio diciamo positivo. L'inventiva, ecco, se ce l'hanno i boss, ce l'hanno molto di più anche chi li insegue. Io vorrei chiedere un'altra cosa a Beppe Lumia, al comandante Lumia. Tra i vari tipi di bunker c'è stato anche il ritrovamento, diciamo così, di una specie di piccolo anche villaggio di bunker sotterranei, no? Sul versante ionico e effettivamente nel corso del tempo era stata realizzata una vera e propria rete labirintica di bunker e di corridoi sotterranei che, sfruttando la rete fognaria della cittadina, permettevano di passare da una parte all'altra del paese, piuttosto che entrare da una casa e uscire poi da un'altra, come effettivamente anche John stesso si rende conto mentre girava in questo reticolato di vie. Era un po' come rivivere la mappatura della cosca, perché tutti gli accessi e tutte le uscite da e per questa rete di cunicoli avvenivano attraverso abitazioni di 'ndranghetisti. Vedete che è pazzesca questa cosa, cioè è davvero una città sotterranea ed è un regno alternativo e parallelo a quello della gente normale che vive alla luce del sole. L'idea di dover costruire proprio una città sotto i propri piedi, quindi che oltre al fatto che diventa una città per topi, cioè di persone che decidono di vivere come topi, sepolte sotto la terra e costrette a muoversi attraverso la rete fognaria, ma è altrettanto inquietante il fatto che venga riprodotta in questa città sotterranea la stessa dinamica dei rapporti e quindi anche delle alleanze e dei contatti che ci sarebbe nella città, diciamo, superiore. Oltre al fatto che la quantità, l'idea che ci sia una rete addirittura che collega i bunker fa impressione, perché dice ma quanti bunker ci sono, quante persone avevano bisogno in quel posto di nascondersi? Allora do un numero da prendere con elasticità. Dal metà degli anni 90 ad oggi solo l'arma dei carabinieri credo che abbia portato alla luce circa 120-130 bunker solo nella provincia Regina. 130 bunker solo nella provincia Regina, una quantità pazzesca. A ciascuno il suo. Era stato costruito dentro un forno di pizza, qualcuno è nascosto nelle campagne, qualche altro dentro una casa. Ci sono quelli allestiti con i container e quelli fatti di cemento. Un vero villaggio parallelo, invece, è stato scoperto a Platì, dove erano riprodotte sottoterra alleanze e relazioni esistenti tra i clan sopra, alla luce del sole, per così dire. Sono di sicuro più di 100 i bunker trovati in Calabria negli ultimi anni, più di 100 solo quelli trovati dall'arma dei carabinieri nella provincia di Reggio. Rifugi per la latitanza di boss, emblema dell'impunità di chi pensa e cerca in ogni modo di sfuggire alla cattura. Luoghi di disperazione anche di chi si sente così braccato da accettare di vivere, come vi ho raccontato nella prima parte di A ciascuno il suo, come i topi e con i topi, come quello che ho incrociato io quando sono scesa nel bunker di un importante boss di 'Ndrangheta in Calabria. Ma se dagli anni dei processi a gabbie vuote si è passati a decine di catture, è perché quei bunker, per quanto sofisticati, sono stati poi sistematicamente individuati ed abbattuti dalle forze dell'ordine, che dal dettaglio, anche più piccolo, trovano il tassello per arrivare al fuggitivo, come racconta Beppe Lumia, comandante dei ROS di Gioia Tauro, incontrato insieme a John Dickey, studioso di mafia inglese e autore di Mafia Bunker. Sicuramente negli ultimi 5-6 anni il fenomeno dei bunker interessa soprattutto Campania e Calabria e non tanto la Sicilia. Però il bunker sono, direi, storicamente significativi, nel senso che ci sono dei precedenti storici. Durante il fascismo la mafia siciliana, durante l'operazione Mori, aveva i suoi bunker, aveva persino i suoi bunkeristi specializzati, che poi è una figura che rispunta, diciamo, in tempi più recenti. Cioè l'esperto nella costruzione di bunker. Lo specialista nella costruzione di bunker. E cosa ci raccontano i bunker? Raccontano molto semplicemente che l'iniziativa è passata dalla parte dello Stato, almeno sul territorio, almeno dal punto di vista del controllo del territorio. Basti pensare che negli anni 80, anni 90, primi anni 90, tutti i grandi capi delle maggiori organizzazioni criminali erano latitanti. Lo Stato faceva regolarmente processi a gabbie vuote. E la cattura, questa lunga fase, stiamo parlando ormai di 20 anni, diciamo dal 92 in poi, questa lunga fase di cattura dei latitanti, soprattutto di Cosa Nostra, prima, poi passare a 'Ndrangheta e Camorra, è la storia di un successo dello Stato, un successo storico, perché non c'era mai stata una caccia ai latitanti così intensa nella storia. Cioè, la figura del latitante è un aspetto che passa attraverso tutta la storia di queste organizzazioni, è la figura che è l'incarnazione dell'impunità, il latitante. E se lo Stato ha avuto successo in questi anni a catturare i latitanti, è una cosa da dire ad alta voce. Non vuol dire che è la fine della lotta alla mafia, non vuol dire nemmeno che è l'inizio della fine della lotta alla mafia, ma è comunque un successo significativo che dobbiamo dire ad alta voce, che noi abbiamo cercato in qualche modo di dire anche in questo documentario e di sottolinearlo. È molto importante contrapporre queste due immagini che tu evocavi, quelle dei processi degli anni, di qualche decennio fa, negli anni 80, con le gabbie vuote, e quelle invece dei processi con i videocollegamenti, come ci sono adesso, oppure con gabbie piene. A proposito della Calabria, quanto in qualche modo, visto che hai studiato i bunker calabresi, questa rete di bunker utilizza anche luoghi che erano stati usati per i sequestri? Sì, allora probabilmente dal punto di vista storico, inizialmente quelli che erano i nascondigli in aperta campagna utilizzati per nascondere i sequestrati vengono in una fase successiva riutilizzati nell'ottica della fuga, quindi della latitanza. Su alcune fasce però della provincia, perché tutti i rinvenimenti degli ultimi anni ci hanno dimostrato che normalmente un boss preferisce avere un bunker presso la propria abitazione, la villa in cui abita, la palazzina in cui abita. Un bunker che può avere tantissime forme, può essere un piccolo cavedio, un piccolo rifugio, un doppio fondo dietro un armadio, qualcosa in cui trovare riparo anche per 2 ore in occasione di una perquisizione, di un atto a sorpresa di carabinieri o polizia. piuttosto che, come per esempio insegnano i bunker rinvenuti sul versante ionico della provincia di Reggio, dei veri e propri mini appartamenti customizzati con tutte le comodità del caso, l'aria condizionata, il televisore LED, un letto con matrimoniale con materasso in lattice, all'interno, quindi sotto la base dell'abitazione principale della famiglia. Nel corso del tempo, man mano di questo ci siamo accorti, nel tempo loro hanno affinato le tecniche di occultamento e lì dove, come per esempio sulla fascia tirrenica, come per esempio su Rosarno, cominciano a percepire che avevamo intuito la chiave di lettura dal punto di vista della ratio architettonica per capire dove all'interno di una casa poteva esserci un bunker, cominciano a spostare i bunker all'esterno delle case, nei giardini, nelle campagne, quindi ritornano alle origini. Che sentivano evidentemente più sicure. Sì, meno sottoposti a pressioni e quindi scegliono dei posti meno riconducibili a familiari o a se stessi e persone comunque compiacenti. Tutto quello che adesso Peppe Lumia ci stava dicendo pone un'altra questione che poi ormai è sempre più una questione cruciale nella lotta alle mafie, che è la rete delle persone che aiutano i boss anche nella fuga. Cioè stiamo parlando di città sotterranee in tutti i sensi, di bunker come sentivamo, spesso dotati di aria condizionata, di ogni comfort, cioè di luoghi di soggiorno anche per parecchio tempo, se appunto si tratta di latitanze che vanno avanti per parecchio tempo. Questo vuol dire che non si tratta di stare nascosti in un posto ricavato improvvisato, ma si tratta di aver utilizzato i servizi, quindi di esperti in ingegneria, in attività elettroniche, per poter avere un bunker di questo tipo, perché spesso sono dei piccoli gioielli di tecnologia. Io ricordo quello di Casa Pesenna di Michele Zagaria, era appunto un piccolo gioiello di tecnologia con tutto il controllo del territorio, delle telecamere, parete mobili. Ecco, vuol dire che ci sono state delle figure terze che hanno prestato la loro competenza al servizio dei boss in modo consapevole e complice, perché chiaramente costruirsi un bunker sottoterra in una propria casa nessuno può far credere che sia per andare a giocare a nascondino. Ecco John, un'altra questione interessante, diciamo, del ritrovamento dei bunker e dei latitanti, molto dicono gli oggetti trovati anche in questi bunker. A volte abbiamo visto che ci sono stati lasciati anche dei libri, no? Sulle persone che... Sì, cioè libri, immagini sacre. I bunker in genere raccontano una storia di, diciamo, di miseria esistenziale, molto semplicemente. C'è un tentativo, si vede negli oggetti lasciati lì dai boss, c'è stato un tentativo di costruire una parvenza di vita normale all'interno di questi bunker sotterranei. Però l'assurdità della situazione, dicevo, rende abbastanza patetico questo tentativo. Non si tratta di altro che di un preparativo, una fase preparatoria per la vita in carcere, praticamente. Rappresenta anche l'assurdità della miseria morale, esistenziale della vita del boss. E il fatto che siano disposti a vivere in questo modo, perché inseguiti dalla giustizia, ma appunto senza neanche il discorso che spesso si fa, tutto il potere che accumulano, nonostante tutto questo, ecco, vivono costretti in questi spazi così angusti e senza aria. Ma se prima parlavamo della complicità di chi li aiuta a realizzare questi bunker, c'è un altro tipo di complicità su cui vorrei sentire Peppe Lumia, che è la complicità di chi in quel territorio sa perfettamente dove sono i boss che si nascondono. Anche se la cronaca, diciamo, recente ci ha raccontato anche questo fatto eccezionale di un boss che si è consegnato, il pesce, che si è consegnato e si è costituito, una cosa che non aveva precedenti, un segno molto importante, il più delle volte, diciamo, almeno fino adesso, siete stati voi ad andare a catturarli e ad arrestarli. Però ci sono stati boss, anche all'interno della stessa famiglia pesce, che anche nella latitanza, non so, ricevevano anche donne nei loro bunker, o comunque avevano bisogno, laddove c'era una latitanza prolungata, oltre che incontrare i loro, diciamo, sodali, di tante cose. E queste chiaramente potevano avvenire perché c'erano tante persone che erano informate di certi nascondigli, però erano complici. Sì, allora, in questo caso vorrei, per quanto numeroso sia il seguito di persone che si portano dietro i boss all'interno del bunker, mi riferisco al team di costruttori, sicuramente servirà quantomeno un muratore che abbia degli elementi di ingegneria edile, di architettura in sé, che ne abbia già costruiti altri di bunker per evitare che implodano, perché stando sottoterra devono sopportare il peso del terreno che hanno sopra, ma anche non lo so, il passaggio di mezzi, come per esempio il bunker di Francesco Pesce, Testuni, ma anche tutta quella filiera, quegli anelli logistici che dalla famiglia conducono al latitante, o dalle persone care, per esempio un amante, portano le comunicazioni al latitante, che dal latitante, da e per il latitante, veicolano comunicazioni che possono essere i cosiddetti pizzini di provenzaniana memoria, piuttosto che le imbasciate calabresi orali. E quindi esiste un numero più o meno elevato di persone che sanno che il boss sta lì, ma sono sicuramente persone che fanno parte della cosca, dell'associazione criminale, che non tradirebbero mai per nessuna cifra al mondo il boss latitante, che è il loro referente, è il loro datore di lavoro, e per loro è un vero e proprio punto di riferimento. Brusca dice che negli anni 90 Cosa Nostra, ed è credo una delle poche eccezioni, Brusca faceva parte del mandamento di San Giuseppe Iato, che è l'unico mandamento in cui in provincia di Palermo si ha notizia di due bunker, e uno era stato fatto dal padre del Brusca proprio sotto casa. Il secondo lui lo denuncia in sede d'udienza, era già collaboratore di giustizia, e parla di questo bunker costruito negli anni 90, avrebbe dovuto ospitare boss del calibro di Riina e parte del loro arsenale, ed era costato 300 milioni di lire, ed era stato costruito ad Alcamo, quindi leggermente fuori rispetto il loro territorio di influenza, quantomeno dal punto di vista letterale, quindi in provincia di Trapani, ma 300 milioni di lire negli anni 90. Tantissimo. Un bunker costa oggi, un bunker in cemento, quantomeno, per quanto piccolo sia, 30-50 mila euro. C'è una specie di industria dei bunker. Sì, ma soprattutto è un posto da tutelare, un'area da tutelare, quindi difficilmente la gente comune potrà vedere un determinato movimento di spostamento di derrate alimentari, di persone che si recano con assiduità, con cadenza periodica, dal paese verso un determinato appezzamento di terra o un'area determinata fuori dal centro abitato, e potrà capire, cioè potrà percepire che quella è un'area interessante, però non saprà mai che sotto quel determinato albero, all'interno di quel determinato pollaio, c'è un bunker con dentro, soprattutto in quel momento, un latitante, che è anche il grosso dilemma che viviamo noi. Sul mio blog Storiacce trovate anche le foto che ho scattato all'interno del bunker e il racconto che ho fatto. Per riascoltare questa, come tutte le altre puntate di A Ciascuno il Suo, il sito è radio24.it. Ci trovate anche sulla pagina Facebook di Storiacce, su Twitter l'account è Raf Calandra. Ciao a tutti, a presto!